Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti. Ebbene, oggi abbiamo cambiato sede, non siamo più a parlare di cibo a Milano, ma siamo a parlare di moda a Firenze, a Pittiuomo. Beh, scherzavo. Noi continueremo a parlare sempre ovviamente di cibo, degli argomenti inerenti al cibo, ma oggi vorrei, diciamo, accostare il cibo alla moda, perché sono, diciamo, hanno molte simiglianze, hanno molte correlazioni, e la prima che mi viene immediata è tra stilisti e chef. Ebbene, in Italia negli anni 70-80 molti giovani stilisti sono diventati poi dei grandissimi operatori nel mondo della moda, dei grandissimi esportatori conosciuti in tutto il mondo. Diciamo che da piccoli sono diventati grandissimi. Allora mi chiedo, ma gli chef italiani sono in grado di seguire i loro, diciamo, compagni di viaggio nel mondo dello styling, che sono appunto gli stilisti? Beh, in altri paesi succede. Pensiamo che Gordon Ramsay ormai ha non so quanti ristoranti, fa, diciamo, appare sempre in televisione, fa libri, fa grandi serate, ma poi ha creato una catena. Così pure in altri paesi Ducasse ha creato tantissimi ristoranti in giro per il mondo. Wolfgang Puck addirittura fa un fatturato da multinazionale negli Stati Uniti. Poi potrei continuare. In Italia invece sì, ci sono degli chef che hanno fatto, diciamo, creato un ristorante o un secondo ristorante, però non è venuto fuori, come posso dire, una holding, una società, un gruppo. E allora io ho con me degli ospiti. Ho innanzitutto Massimo Bergami, che è professore di organizzazione aziendale all'Università di Bologna, ma anche diciamo che dirige dei master in business administration proprio dedicati al food and wine. E poi abbiamo con noi il maestro della cucina italiana, Gualtiero Marchesi. Allora la prima domanda la faccio a Bergami: perché in Italia non troviamo, diciamo, un imprenditore chef che riesca a allargare il raggio al di là di un ristorante o due, caro Bergami? Intanto credo che il problema principale dei cuochi italiani sia poi il modello di riferimento. Spesso si vedono come cuochi, come funzione prevalente, mentre la funzione dell'imprenditore viene vista semplicemente come una funzione secondaria, mentre i ristoranti sono imprese a tutto tondo, come tante altre imprese. Certamente in Italia esiste un problema legato alla dimensione delle imprese, che è trasversale a tanti settori, però in alcuni settori gli imprenditori sono riusciti a fare il salto. Nel caso della moda, che è un settore ad alta creatività, è un caso molto azzeccato, perché per tanto tempo le imprese di moda italiane sono rimaste piccole, e poi dopo c'è stato a un certo punto un decollo. Questo decollo è stato il momento in cui alla creatività i grandi della moda sono stati in grado di associare altre competenze, che da una parte hanno sicuramente a che vedere con tutta la gestione della dimensione delle risorse finanziarie, ma esistono anche altri aspetti. Penso in particolare alla componente manageriale pura, cioè al fatto di costare alla capacità di innovazione la capacità di gestire delle risorse. Penso al marketing, penso alle risorse umane. Molto spesso i nostri grandi chef sono dei solisti che non sanno cercare o non riescono a combinare quello che è il loro grande talento unico, secondo me a livello globale, con altre competenze che potrebbero dare un forte boost a quelle che sono le loro attività, così come accade in altri paesi, così come accade in casi eccellenti come quelli che ha citato Davide Paolini, ma tanti altri. Penso ai Bastianic, penso a Boulou, ma si potrebbe fare un lungo elenco. Ecco, sentiamo appunto su questo. Beh, credo, come posso dire, colui che rappresenta gli chef italiani, che l'ha rappresentati per tanti anni e continua a rappresentarli, addirittura ora vola anche a Miami, quindi, come posso dire, lui sta creando. Gualtiero Marchesi, buongiorno. Ma io vorrei prima fare una distinzione tra lo chef o cuoco, come dico io, preferisco dire cuoco perché non vorrei usare questa parola, e cuoco e poi ci sono gli artisti. Allora, io non confonderei di questi signori qua che tu parli, non penso ci sia un artista vero, perché se fosse un artista credo che farebbe il suo lavoro e non andrebbe a cercare di farsi 20, 30, 40 consulenze tutto l'anno in giro per il mondo, anche perché rimane molto difficile. La scuola, ad esempio, che davanti a me sono sempre i giapponesi, tanto per cambiare, perché quando arrivano a fare il famoso kaiseki, che è il grande menù degustazione vero, che non sa fare nessuno in giro, sono gli artisti, sono quelli che hanno una certa età, che hanno raggiunto una certa capacità, no? E poi io cito sempre questa famosa frase di Béla Bartók, che dice: l'improvvisazione presuppone la conoscenza della materia. Ma cosa ne sanno questi ragazzi giovani della materia? Io faccio sempre un esempio scherzando: ma tu tocchi, dico, la fidanzata, senti le posizioni diverse, no? Allora, così è lo stesso l'animale che tu affronti, il pollo, l'agnello, e ci sono modi di cottura, tempi, appunto, c'è un'infinità di cose che se uno non sa, cucina così ad orecchio, e vabbè, insomma. Allora sono più brave le mamme nelle case, che siccome cucinano col cuore, riescono a fare meglio le cose dei professionisti. Questo è il mio pensiero. Massimo Bergami, cosa ne pensi? Ma io ho sempre grande rispetto per tutto ciò che dice il maestro Marchesi, prendo con grande serietà le cose che dice. Non mi sento di condannare le consulenze in maniera così assoluta, nel senso che ci sono grandi casi di maison che lavorano sulla creatività. Prendiamo un caso ultra noto a tutti, Philip Stark, che è un designer che si è occupato di design e creatività in settori molto molto differenziati, però mantenendo la sua maison e mai sviluppando direttamente, ma lavorando prevalentemente su licenze, sulla capacità di offrire la sua creatività a chi poi diversamente la sapeva ingegnerizzare e sviluppare. Questo potrebbe essere un altro modello che non vedo per quale motivo non potrebbe funzionare anche nel caso dei cuochi italiani. Non vedrei nulla di male se qualcuno di questi cuochi mettesse in piedi un laboratorio creativo che sa fornire ad altri contenuti di creatività unici, che sono quelli tipicamente italiani, e che poi magari qualche gruppo che sa, dal punto di vista manageriale e imprenditoriale, scaricarli a terra e utilizzare. Penso che il vero problema sia quello che è insito nella nascita di tutte le imprese. Se noi prendiamo ad esempio le imprese che nascono dalla ricerca universitaria, oppure le imprese dove c'è una forte componente di ricerca innovativa, quelle invenzioni, quelle innovazioni che riescono a trovare delle gambe sono quelle per cui l'imprenditore sa, l'inventore, l'innovatore sa combinare le sue competenze con quelle di altri, e quindi si cerca di creare un team dove ci siano persone che sanno portare cose diverse al progetto. Non a caso parlavo di marketing, di finanza e di gestione delle persone come aspetti complementari a quello della creatività e dell'innovazione. Maestro Marchesi, allora a Miami, cosa aprirà Miami? Potrei risponderti due cose. Certo. Prima di tutto, non dimentichiamo che quando ero ragazzino il cuoco era il penultimo gradino della scala sociale, come i cantanti d'opera, non conoscevano nemmeno la musica, non dico tutti, no? E non dimentichiamo che questo, definito dall'amico Ermanno Olmi, è il mestiere, l'arte più grande, perché comprende anche la fisica, la chimica. È inutile che facciamo quelli che fanno la cucina molecolare. La cucina è di per sé scienza, è una scienza. Allora, se non si conosce appunto all'origine la materia, il prodotto, quello che può dare, è difficile anche comporre un piatto, è difficile già cucinarlo, poi comporlo addirittura. E qui faccio l'esempio del pittore che dipinge, e poi anche qui smettiamola: mi piace, non mi piace, basta, perché alla fine anche davanti a un quadro tu esprimi un'impressione perché a te piace, a quell'altro non piace, ma è la giusto che sia così. Io sono giusto, anche stufo di andare ai concerti e di sentire che tutti hanno il loro commentino da fare, poi guarda caso uno è il contrario dell'altro, ma io vado al teatro per sentirmi la musica, vado al ristorante per godermi il ristorante e scelgo il tipo di ristorante che per quella sera mi va meglio, preferisco una cosa così disincantata, la trattoria, basta che si mangi la loro cucina buona, fatta bene, poi scelgo il grande ristorante per bene cui vado. Grazie Gualtiero, e buona fortuna, ti auguro tanta fortuna a Miami, e grazie a Massimo Bargari, grazie, a presto. Un saluto a tutti, grazie. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di moda, ma legata al cibo ovviamente. Siamo a Pitti, a Firenze, da dove trasmettiamo, e le analogie tra moda e cibo sono veramente molto forti, soprattutto tra stilisti e chef. Allora abbiamo con noi un imprenditore del settore, abbiamo un imprenditore che è diventato famosissimo in Italia, che è Joe Bastianich, ma che negli Stati Uniti è un personaggio molto conosciuto perché la sua famiglia ha ormai una catena di ristoranti di alto livello, diciamo di notevole interesse. E allora io voglio cominciare proprio da Bastianich questa chiacchierata e chiedere, ma negli Stati Uniti, in Inghilterra e in altre parti del mondo è abbastanza normale che uno chef riesca a creare una struttura con più ristoranti anche di alto livello? In Italia non succede, o succede rarissimamente, tutto al più si crea un secondo ristorante diciamo molto vicino, o si crea un bistrò, o si crea una trattoria, ma non si creano tanti ristoranti, soprattutto non si va poi anche all'estero, diciamo come fa Gordon Ramsay, come ha fatto Jamie Oliver e tanti altri personaggi. Cioè lo stilista di un tempo in Italia, quello giovane, sono riusciti a creare delle multinazionali. Gli chef non ci riescono. Allora io voglio chiedere a Bastianich, che ha un'esperienza ormai sia italiana che americana, perché questo in Italia non succede? Cosa manca allo chef italiano? Anzitutto grazie dell'invito. Io penso in America, come un po' tutto è gestito con una mentalità molto americana, allora noi siamo più una mentalità più di creare strutture di management, di avere una gestione in qualche maniera meno personale. E qui la gestione del ristorante, c'è il modello classico del ristorantore che sta lì in sala ogni sera, gestisce i clienti, o chef che sta in cucina per i clienti. Invece da noi anche è un business, perché riusciamo a girare i tavoli più di una volta, diventa un giro economico anche più grande, allora puoi sopportare più struttura, più personale, e con quello viene la capacità di anche gestire più ristoranti. È una questione culturale, secondo me. Ma Joe, volevo chiederti questo: tu hai aperto il primo ristorante in Italia, non è che sia anche molto la burocrazia italiana quando uno apre un ristorante o un'attività, che sia molto più complicato rispetto agli Stati Uniti? Quello è vero, avete una burocrazia qua, specialmente nel mondo del cibo, che a volte è molto impegnativa, ma no, io penso che proprio c'è una mentalità, anche il cliente americano è più, sai, gli italiani sono un po' più esigenti, no? Mangiano tutti insieme al stesso momento, il cliente americano mangia anche alle 6, alle 10, in Italia tutti vogliono mangiare alle 8 e mezza, creano delle situazioni per il ristorantore un po' più difficile. Avendo un cliente americano che secondo me è più disponibile, più aperto, ti lascia delle possibilità di gestire i ristoranti in un'altra maniera. Allora anche voi come clienti, gli italiani hanno abitudini diverse dagli americani. Ma sentiamo Fabio Picchi, che è chef ristoratore, anzi lui è un cuoco patron appunto del Cibreo, ma in realtà Fabio è riuscito a creare il Cibreo Square, come la chiamo io, cioè in un'unica piazza c'ha il bar dove si mangia, il ristorante, c'ha il teatro, c'ha la trattoria, quindi diciamo uno sviluppo c'è stato. Cosa ne pensi, Fabio? È difficile andare fuori poi dalla propria città? Beh sì, io l'ho fatto e me ne sono pentito, no scherzo, per l'amor del cielo, non me ne sono pentito, è stata la più grande esperienza della mia vita, però l'esperienza che poi ho tratto è del capire che avevo la fortuna di essere nato a Firenze, di lavorare a Firenze dove passa tutto il mondo, e quindi mi sono reso conto che potevo fermarmi, allargarmi e aspettare questo passaggio che Firenze offre. Noi fiorentini siamo 372.000 persone, pochissimi, con la provincia non arriviamo nemmeno al milione, mentre abbiamo un flusso di turismo straordinario, non sprovveduto, mettetevelo in testa, ormai c'è un turismo formato, capace, attento, che conosce, che, come diceva l'amico Bastianich, utilizza la struttura ristorante spesso e volentieri nel suo quotidiano e quindi con una capacità di intendere quel che avviene dentro il ristorante, alle volte impressionante. E questo fa sì che chi fa impresa in questo paese possa, se vuole, approfittarne. Io ho 54 dipendenti, nel mio piccolo ne sono orgoglioso perché sono dipendenti, nel senso sono il mio vero valore, la formazione che ho operato con loro, a me stesso e in loro stessi dentro il mio lavoro. Ecco, io voglio sentire anche una persona che è al di fuori ma è dentro questo settore, perché abbiamo con noi Gaetano Marzotto, che è presidente di Pitti, imprenditore del settore tessile abbigliamento, ma anche del settore vino. Quindi, ma appunto, volevo chiederti, Gaetano, tu vivi con gli stilisti, hai vissuto con gli stilisti, hai visto gli stilisti diventare grandi imprenditori, ma secondo te perché gli chef italiani non sono riusciti a fare questo passo, diciamo, di trasformarsi e di creare aziende, diciamo, molto più importanti? Beh, sicuramente un primo punto l'ha toccato Bastiani, c'è un problema di dimensione. Nella moda riusciamo ad arrivare a fare dei fatturati molto importanti, quindi si riescono a dividere i compiti. Dallo stilista creativo si formano sempre nelle famiglie qualcuno che poi fa la gestione. Armani aveva il suo socio che era gestore, Dolce & Gabbana hanno il fratello di Dolce che è un gestore, e così via. Tutti quanti hanno sempre avuto del management molto molto capace, perché poi non basta essere creativi. Per avere successo sul mercato bisogna avere tutti i fattori di marketing, di produzione, di logistica che funzionano. Detto questo, nel mondo della cucina ci sono dei casi in Italia di famiglie che sono riuscite ad avere successo e essersi sviluppati. Vogliono, per esempio, il ristorante da Vittorio con i fratelli Cerea e anche altri che hanno avuto successo. Sì, direi anche i fratelli Alaimo, che scompensano molto bene, certo. Perché uno è un gestore e l'altro è un creativo, è vero questo? Esatto, ce ne sono vari. Naturalmente, appunto, bisogna compensarsi. Poi sono d'accordissimo con quello che diceva prima uno dei nostri, che la burocrazia in Italia è complicata, quindi avere i permessi, riuscire a vincere certe situazioni. Poi c'è proprio la mentalità italiana che non si può perdere, quindi molte volte noi italiani giochiamo di rimessa, non giochiamo d'attacco, perché l'idea di avere un insuccesso per gli italiani è un disastro. Invece in America c'è proprio la sfida. La sfida, e se ti va male provi da qualche altra parte e ti funziona bene. Questa è una mentalità vincente che va spronata nelle nuove generazioni italiane, secondo me funzionerà moltissimo. Ma io voglio chiedere a Fabio Picchi se ha mai pensato di andare all'estero, di aprire dei locali all'estero. Ma sì, per l'amor del cielo, ci ho pensato, l'ho anche fatto, è stata appunto con Tokyo, è stata un'esperienza bellissima, sono stato coinvolto poi in dei progetti che sono falliti e non li ho mai vissuti come un dramma. Forse in me c'è un gene pratese, vero quello che dice il tuo ospite, vero anche appunto che se nasci a Prato o nelle vicinanze di Prato, io sono fiorentino, quello del fare impresa, del rischiare, è proprio un gene che ci abbiamo dentro. Ne va anche la possibilità dell'insuccesso, per l'amor del cielo. Torno a dire, ci sono i numeri che poi fanno la legge. È vero quello che diceva Bastiani, qui abbiamo un ritmo della colazione, del pranzo, della cena, che ci dà numeri diversi, ma rispetto a chi, a che cosa? Perché se in un caffè come quello che posso gestire io nelle mie aziende fornisco cibo anche alle 4 del pomeriggio o alle 6 del pomeriggio, ne va semplicemente così, ne va nel mezzo un'organizzazione che poi aver voglia di creare dentro la tua azienda o non aver voglia di creare dentro la tua azienda. Quindi non mi sento più capace di, o meno capace di altri imprenditori nel fornire cibo magari ad orari inconsueti per il ritmo italiano, ma più consueti per un ritmo straniero che le città d'arte offrano. Certo, è vero che c'è una burocrazia che è pesantissima, esiste anche, chiamiamolo però anche un susseguirsi di governi che hanno visto nella tassazione di tutti i meccanismi commerciali, di tutti i meccanismi operativi, una possibilità quasi da partner, da sì. socio alto, direi, per cui siamo veramente questo, affaticati da questo punto di vista. Direi ecco. che su questo non argomento... Non ci sono le scuole anche su... poi, alberghiere, Davide, sì. Anche, cioè, sempre una responsabilità... I limiti sono proprio questi, però direi che la burocrazia anche sul mondo del vino, se ne volessimo parlare per produrre vino, diventa sempre più importante. Voglio fare un'ultima domanda a Bastianich, c'è questa. Bastianich, lei è abituato a lavorare con uno chef che probabilmente si paragona all'artista come tutti gli chef italiani, che è Mario Batali. È difficile poter fare impresa con uno chef che si ritiene un artista? Beh, no, Mario è un caso particolare, noi abbiamo sempre lavorato nel mondo del cibo vino italiano, è artista, io seguo un po' più la parte del business del vino, lui ha una, fuori di essere un chef, ha una grande sensibilità di guadagnare, nel senso perché fare business senza il margine, senza guadagno è perdere tempo. Ma volevo dire anche a questo punto, nel vostro paese delle meraviglie succede sempre il fenomeno che cambia non solo l'Italia, ma cambia un po' il mondo. In questo caso parlo del mio socio Oscar Farinetti e Italy. E Italy è nato qui e sta cambiando il gestione, il mondo della ristorazione del cibo in tutto il mondo, non solo l'Italia. Un'idea italiana che trasforma il mondo come mangia e come acquista cibo. È un'idea italiana, è nato qui. Bene, credo che questo possa essere un esempio che possa far bene appunto a tutto, sicuramente farà bene a tutto il paese, soprattutto alla distribuzione dei prodotti italiani. Grazie a Bastianich, grazie a Fabio Picchi e grazie a Gaetano Marzotto anche per l'ospitalità. Il gastronauta. Oh, buongiorno cari gastronauti. Ebbene, ripeto, noi stiamo trasmettendo da Pitti, siamo quindi immersi nella moda tra vestiti, modelle, personaggi abbastanza bizzarri, ma io, come ho già detto precedentemente, ritengo ci siano molte correlazioni tra moda e cibo, come tra stilisti e chef, e su questo punto abbiamo già cercato di intavolare, così come posso dire, un dibattito, una discussione, perché molti chef stranieri, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Wolfgang Puck, Boulud, poi potrei continuare, Ducasse, sono riusciti nel tempo a creare dei veri e propri imperi, cioè più ristoranti. In Italia ancora diciamo che questo fenomeno non è riuscito, è un bene o un male, questo non lo so, ma quali sono veramente le motivazioni? Che lo chef italiano ha un'impostazione molto più portata, come posso dire, all'arte, molto più portata alla cura della cucina e poco alle imprese, quindi poco imprenditore, molto artista? Lo chiedo a Carlo Cracco, è così Carlo? Sì, buongiorno a tutti. Tu pensi che voi chef italiani importanti siate più artisti che imprenditori oppure ci sono altre ragioni, la burocrazia italiana, la scuola italiana che non dà managerialità? Secondo me è solamente una questione di mentalità, siamo ancora abituati che all'estero lo chef se non c'è mangi lo stesso e vai lo stesso al ristorante, da noi se non ti vedono dietro i fornelli per due volte dicono non c'è già più, per cui abbiamo una mentalità molto provinciale purtroppo, mentre all'estero non c'è questo problema ed è il motivo per cui riescono poi anche a sviluppare e ad espandersi. Ma ci sono i pro e ci sono i contro, non bisogna snaturare troppo questo bellissimo lavoro, ma dall'altra parte bisogna rafforzarlo perché altrimenti ce lo portano via, quindi bisogna trovare il compromesso giusto. Ecco, tu che hai lavorato nelle cucine di Ducasse, ma questo personaggio che riesce a tenere in piedi tantissimi locali. Ecco, cosa c'ha di diverso? È più imprenditore che grande cuoco, oppure cos'è? O combina veramente tutte e due queste qualità? Fa il suo lavoro in maniera diversa rispetto a quella che si fa normalmente, nel senso che non sta solamente in una cucina, ma pensa e si comporta esattamente come uno chef, nel senso che dà gli ordini, forma le persone. Bisogna ricordarsi che poi per espandersi bisogna fare formazione, perché tu hai bisogno poi delle persone che fanno quel lavoro, per cui non è che poi dopo ritrovarti, no, senza il personale formato, per cui uno degli aspetti più importanti ad esempio è quello della formazione, che in Italia è molto trascurata dal punto di vista manageriale, soprattutto tante scuole tutti all'estero, perché sono molto più apprezzati e molto più considerati. C'è un motivo per cui all'estero si parla molto più italiano rispetto a qui, no? I grandi maestri, i grandi personaggi della ristorazione spesso stanno all'estero, e in Italia invece siamo sempre relegati un po' indietro, proprio per il motivo per cui non riusciamo ad essere internazionali. Ecco, rimani con noi perché abbiamo anche un esperto di formazione che poi sentiamo, però voglio passare a un tuo collega, voglio passare a Andrea Bertoni, il quale diciamo che un gruppo lo sta mettendo i piedi, perché dunque Pisacco, il ristorante Dry e poi il ristorante Nuovo Berton. Andrea, ma è così difficile per uno chef italiano diventare imprenditore? Buongiorno a tutti, ciao Carlo, ciao Davide. Ma non è difficile, come giustamente diceva Carlo prima, siamo un po' provinciali nel nostro settore, quindi dovremmo guardare con un occhio diverso anche quello che hanno fatto i nostri colleghi all'estero, quindi da quel canto lì, se ci confrontassimo sotto un altro profilo, magari si riuscirebbe a espandere un po' di più il nostro lavoro e ad aprire più attività. Dobbiamo anche abituare il cliente a capire che se lo chef non è in cucina, la cucina funziona bene comunque. E io credo, se mi permettete tutte e due, di dire che se non c'è lo chef e la cucina funziona bene, è un merito enorme di aver creato squadra. Quindi secondo me dovrebbe essere premiato questo. Vuol dire che il posto è sano. Esattamente, cioè, succede. Ma abbiamo un esperto di organizzazione aziendale che è docente alla Bocconi. Buongiorno a Severino Salvemini. Buongiorno Davide. Professore, lei ha sentito cosa dicono i nostri interlocutori. Tu hai fatto una ricerca, stai facendo anche delle ricerche su questo fenomeno. Ecco, cosa manca? Abbiamo fatto parecchi casi proprio su questa possibilità di passare da chef ad amministratore delegato, cioè da cuoco a imprenditore, e purtroppo i casi più interessanti sono tutti i casi stranieri, come avevi accennato tu, da Ramsay a Boulou, da Ducasse a Robuchon, eccetera. La situazione italiana è una situazione un po' tardiva da questo punto di vista. È vero che le cose si stanno muovendo, però quando noi parliamo di aggregazione stiamo parlando di aggregazione ancora di pochissimi ristoranti che stanno insieme. I fattori ostacolanti questa crescita imprenditoriale, questo nanismo imprenditoriale, che poi non è solo dei ristoranti, perché è di tutta la categoria dell'economia italiana, un po' è la scarsa cultura economica dei cuochi, perché non si insegnano nei loro percorsi delle materie aziendalistiche, che invece sono importanti per poi diventare imprenditori. E un po' questa difficoltà di passare da chef ad un ruolo diverso, infatti gli italiani che ce la fanno, che diventano più grandi o che replicano poi dopo in esercizi ristorativi diversi, sono quelli che guarda caso riescono poi a combinare un'organizzazione familiare. Pensiamo a, non so, ai Santini, dove Nadia è in cucina e Antonio invece gestisce l'azienda, dove la Bauerman lavora con Massimo Spada che si occupa, oppure a Laimo che si è messo con il fondo Palladio, la famiglia sì, Cerea però, comunque si è dato. Scusami Severino, però tutti questi casi in cui c'è questa combinazione tra il gestore e lo chef che si occupa di cucina, non sono riusciti a creare altre situazioni. può darsi che gli Alaimo che hanno aperto ora Venezia e mi dicono apriranno a Parigi, sicuramente potranno crescere, però casi veri e propri in Italia non ce ne sono, perché anche gli stessi non sono riusciti perché non è solo colpa loro, la colpa è di tanti, tra cui anche un po' dei giornalisti e dei critici, quindi anche un po' della tua categoria, in parte perché quello che dicevamo prima, cioè questa richiesta di avere sempre il cuoco in sala o in cucina, perché in questo modo la qualità è sotto controllo, questo è tipico, diciamo, di una mentalità un po' artistica, no? Che è nostalgica del prototipo e invece non riesce a immaginare che poi, così come c'è stata nella moda, come c'è stata nel design col prêt-à-porter, bisogna a un certo punto codificare certi tipi di piatti, certi tipi di ricette e industrializzarli, cioè serializzarli. L'altra grande responsabilità è del sistema Italia, perché la ristorazione non ha un ruolo importante nel Made in Italy. L'altro giorno leggevo, dico solo questo come aneddoto, leggevo su un magazine italiano che una missione di imprenditori, di un centinaio di imprenditori ad Abu Dhabi per fare promozione del Ministero dello Sviluppo Economico e degli Affari Esteri italiani, alla fine ha fatto un catering e sul tavolo c'era un vino australiano. Ecco, questo secondo me è significativo di quanto il cibo italiano non sia ambasciatore del Made in Italy. Ma a quanto pare in molte ambasciate italiane in giro per il mondo girano dei vini francesi, quindi diciamo che se andiamo a vedere il sistema Italia, povera noi. Ma io voglio chiedere a Cracco, che mi dicono che sta per aprire un nuovo locale a Milano sui Navigli, che non è poi una replica del suo ristorante, perché mi dicono che sia completamente diverso, dove ci sarà anche la musica. Un gastro bistrò. Ecco, un gastro bistrò. Ecco, perché? Cioè, tu pensi che appunto la tua cucina sia difficilmente replicabile? Questo è il punto. No, è che non si può replicare la cucina unica del ristorante Cracco. Quello è l'haute couture, se vogliamo, l'alta moda. Il capo, e quindi tu fai il prêt-à-manger in questo nuovo locale. E adesso tento, ci provo con i miei mezzi, che non sono tanti, però sono buoni, e soprattutto sono miei, e cerco di intraprendere questa strada, che è un locale molto grande, insomma, dovrebbe Bello. Devo dire che, vedi, è quello che sostengo dall'inizio di questa trasmissione. Ci sono delle analogie tra moda e cucina. Si passa dall'haute couture al prêt-à-porter, e qui si passa dall'haute cuisine alla pré-cuisine. Quindi diciamo che si scende, come hanno fatto gli stilisti e come insegna il sistema della moda. Ma Bertone questo un po' in parte l'ha già fatto, perché ha riaperto il suo ristorante Bertone, che è l'haute couture, e invece Pisacco e Dry sono il prêt-à-manger. È così, Bertone? È così, diciamo che la mia idea era quella di avvicinare un pubblico più ampio a una cucina di qualità, come farà Carlo e come stanno facendo in tanti altri, perché secondo me bisogna far capire al pubblico molto più vasto, ovviamente, che si può mangiare bene anche con un'offerta diversa dalla cucina, diciamo, simbolo che uno chef può preparare al suo ristorante. Quindi ritengo che oggi ci sia più preparazione anche da parte degli chef nel ampliare il proprio raggio, diciamo, d'azione. Poi volevo collegarmi a quello che diceva il professore, che anche le istituzioni forse dovrebbero aiutarci un po', siamo un po' penalizzati dalle istituzioni, perché la ristorazione in Italia, a mio avviso, dà un grosso contributo anche a livello turistico, perché richiama un certo tipo di turismo. Quindi se le istituzioni avessero un occhio di riguardo nei nostri confronti, magari riusciremo ad investire di più. Io ho investito a Milano perché credo in questa città, mi ha dato molto, e non sono andato all'estero, a Hong Kong piuttosto che a Singapore. Quindi questo dimostra che noi ci crediamo molto, ma dovremmo essere anche un po' più sostenuti per investire ancora di più. Bene, io ringrazio Carlo Cracco e Andrea Berton, prego Salvemini di rimanere ancora con noi. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Ciao Cracco, ciao Andrea. Grazie a voi, ciao, grazie. il gastronauta. Eccoci di nuovo, cari gastronauti, stiamo trasmettendo da Pitti, da Firenze, la capitale della moda maschile in questo momento. Ebbene, e le analogie tra cibo e moda, tra ristorazione e stilisti, quindi tra chef e stilisti, sono tante, come dicevo, però molti stilisti nel tempo sono diventati, diciamo, delle imprese molto importanti. Ricordiamo negli anni 80 Armani era semplicemente uno stilista, così pure Dolce & Gabbana e tantissimi altri. Poi nel tempo, diciamo, sono cresciuti, hanno creato delle imprese molto molto importanti. Questo però nel panorama italiano della ristorazione non succede, o si comincia a intravedere, cioè i casi stranieri Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Wolfgang Puck, Boulud, Ducasse, sono degli esempi molto importanti. In Italia ancora sì, si crea un secondo ristorante, però non si creano delle vere e proprie imprese strutturate. Ora voglio fare questa domanda a uno chef che in questi giorni ha aperto il terzo ristorante in quel di Cortina, dopo aver aperto il secondo ristorante in quel di Orvieto, e il suo primo è il ristorante Vissani. Buongiorno a Gianfranco Vissani. Buongiorno Davide. Tu stai costruendo un mini impero in questo momento, ma quali sono le difficoltà per uno chef di diventare imprenditore, Gianfranco? È sicuramente personale, ci stiamo mettendo tutta, ma diventa sempre un problema. Il personale praticamente sale e cucina, non c'è coordinamento. Poi con questi numeri che andiamo a fare a Cortina di una base di 250 coperte al giorno, diventa dei numeri pesanti, e il personale magari, sai, questi alberghi una volta negli anni 70 a Rimini c'era la bottiglia dell'acqua col numero dell'albergo che veniva segnato sul del porto tovagliolo che andava a quella camera e non bisognava toccarlo. Oggi sono cambiati questi rendieri, è cambiato tutto il modo di fare ristorazione. La ristorazione è semplice, immediata, senza andare su questi, diciamo, chi, senza andare sull'azoto, sulle basse temperature. La cucina forse più immediata con i prodotti di materia prima di alta qualità, è quello che bisogna fare. Bene, rimani con noi Gianfranco, perché continuiamo questo discorso anche con Davide Oldani. Buongiorno Davide. Ciao Davide, buongiorno. Ciao Gianfranco, buongiorno. Ciao Davide. Davide, tu sei andato ad Harvard a presentare il case history del tuo ristorante. Ecco, com'è la reazione degli americani di fronte a una cosa singola, di fronte diciamo al cuoco che in questo caso è un po' un artista, non è un imprenditore? Ecco, cosa ha interessato appunto di questo caso? Ma la cosa che ha interessato loro sono stati sicuramente i numeri, perché la base della facoltà di economia di Harvard sono i numeri che debbano in ogni caso tornare. E quando io ho esposto il caso, quindi prevalentemente si è parlato di numeri, che poi alla base questi numeri tornano perché uno sa fare un mestiere artigianale, questo è quello che ha colpito più di tutto e più di tutti. Questo mestiere artigianale che io faccio, tu sai benissimo che è un lavoro molto sacrificante e molto duro, però credo che con gli anni, che con una base ben solida, si possa comunque costruire qualcosa. Quello che stiamo facendo con il DRO, che dopo, adesso siamo nel decimo anno dall'apertura, abbiamo costruito una piccola base sul quale adesso stiamo lavorando per espandersi leggermente. Quando dico espandersi leggermente, lo farò solo nel momento in cui le risorse umane me lo permetteranno di prendersi responsabilità e di essere coinvolti da parte mia. Ecco, professor Salvemini, perché in Italia c'è così poca, diciamo, preparazione manageriale per il mondo del cibo e della ristorazione? Perché, diciamo, anche dal punto di vista di altri tipi di strutture, parliamo il caffè, diciamo che i grandi colossi li abbiamo all'estero, anche sulla pizza, diciamo Pizza Hut è diventato un colosso, sul caffè, diciamo, Starbucks è diventato un colosso. Perché in Italia abbiamo anche perso, diciamo, la possibilità di trasformare in impresa la nostra artigianalità? Ma io non direi che poi non ci sia questa capacità. La cosa che manca, tu prima facevi riferimento al discorso della moda e si potrebbe anche fare l'analogia col design, la cosa che manca è stata la capacità di coniugare la grande serie, che poi è l'economia di scala industriale, con l'alta gamma. nella ristorazione. Prima dicevamo che ci sono una serie di condizioni più che altro di esterno, di ambiente. Sicuramente è mancata una voglia di impresa o di impresa grande da parte dei cuochi. Il salto del cuoco che passa da chef ad amministratore delegato, a imprenditore, è un salto triplo, è quello che fa Boulou quando a un certo punto lui passa dal 100% del suo tempo in cucina al 30% del suo tempo in cucina. E a volte questo salto triplo è anche mortale, perché bisogna saperlo fare, non è mica così semplice, no? Tra consulenze, pubblicità, eventi, libri, comparsate TV, ego, narciso, eccetera, poi la gente perde un po' la trebisonda e caracolla. E quindi bisogna sapersi strutturare, bisogna allearsi anche con chi sa fare l'imprenditore. Il caso, per esempio, anche, non so, di Crippa, che si allea con il gruppo Ceretto per portare avanti la sua dimensione di ristoratore, mi sembra interessante. Il vero problema è che bisogna fare molto in fretta, perché noi abbiamo un po' perso il treno, ci siamo mossi troppo tardi. Se voi andate a vedere, il cibo italiano è ormai globale, ma di nostro ha solo il nome. Abbiamo la catena Vapiano tedesca che ha 120 ristoranti, abbiamo la catena Tagliatella che ha 650 fast food ed è polacca, abbiamo Mezzo di Pasta che è francese, abbiamo Caffè Nero che sono invece di Jerry Ford. Ecco, è mancato questo momento che secondo me è la fine degli anni 90, l'inizio del 2000, forse, adesso non vorrei essere troppo cattivo, forse gli chef invece di andare in televisione, se si mettevano un po' a lavorare con qualcuno che aveva dei patrimoni, anche perché molte volte era alto il prestigio, ma il conto in banca era in profondo rosso, forse magari questo sarebbe stato più utile. Beh, io qui però faccio un po' l'avvocato del diavolo, poi mi rivolgo anche ai due chef che abbiamo in linea, ma io credo che ci siano pochi imprenditori che hanno creduto nella ristorazione e nei margini della ristorazione, ma in fondo la ristorazione di qualità ha così tanti margini da poter diventare impresa? Lo chiedo a Vissani. Io vorrei rispondere al professore, che è professore, io non lo conosco, sì, certo, piacere professor, di conoscere il professore. Sì. Io le voglio dire che nel 1979, Davide Paolini al corrente, io ho fatto con Mauro Vincenti, che era il big boss degli Stati Uniti, con Luis Trattoria, tutti i cuochi americani, le posso dire, le posso garantire che ci saranno 500 dei miei. Nel 79 io ho fatto tutta una catena di Luis Trattoria e sono stato lì più di 6 mesi a Los Angeles, dove era quotata anche in borsa. Ma il problema fondamentale, questo è un caso, ma il problema fondamentale è che in Italia manca il coraggio e la forza di farlo. È facile fare Ducasse con il Brunei, la Cacan da una parte e il Brunei da un'altra parte. È facile fare il Ceretto con, ma non per Crippa, Crippa è un grandissimo chef, ma è facile fare quando si ha le spalle coperte. Cominciamo a pagare gli stipendi. Io dico a Davide Oldani a fine mese che ci vogliono 10, 7, 8 cuochi e se non lavori devi chiudere. Cioè, qual è quell'imprenditore che si immerge in un'operazione del genere? È difficile, caro signore. E poi un'altra cosa, i direttori d'albergo, che sono ancora rimasti agli anni 60, bisognerebbe ammazzarli tutti, che è la rovina che stanno tenendo botta di questi alberghi. Alberghi che noi abbiamo un caposaldo come del turismo in Italia. Vada a vedere che direttori oggi sono sugli alberghi, è da ammazzarli tutti. Però non è quel problema, è il problema perché non sono veramente delle volte degni di portare questo nome. Si salverà qualcuno, ma sono tanto pochi. Davide Oldani, tu cosa ne pensi? Ma secondo me sono due tagli, sono due ragionamenti giusti che sono stati fatti, sono due tagli diversi però, perché tutti i nomi che ha elencato il professore sono nomi che hanno avuto successo nel mondo e non in Italia, e sono mondi assolutamente che non vedono perlomeno il mio interesse, perché quello che ho deciso di fare nella mia vita è prendere una specialità in cucina interna, cioè in una cucina del territorio, in una cucina, in un lavoro soprattutto molto artigianale. e trasformare, l'unica cosa che si è capito, che abbiamo capito credo prima per prima in Italia, che trasformare l'artigianato in una macchina industriale è praticamente impossibile, visto che sono state fatte le leggi per proteggere i prodotti che sono dei prodotti italiani, che è possibile fare poche quantità, salvaguardarli, eccetera. Quindi bisogna capire bene di cosa si sta parlando, perché io credo che ci sono tanti altri marchi che stanno facendo, che coprono o che fanno cose nuove con marchi di qualità, vedi Autogrill, vedi MyChef, vedi molte altre situazioni che offrono comunque cibo, perché Starbucks non è molto diverso da quello che è il concetto di MyChef o di briciole di MyChef che trovi in tutti gli aeroporti, perché briciole di MyChef fanno il pane a fermentazione naturale, che lo fanno in Francia, congelato, lo rigenerano, lo vendono, così come le brioche, eccetera. Bisogna capire realmente qual è il settore da affrontare. Il mio settore specifico è quello di una cucina e di un lavoro che non ha nulla a che vedere con queste cose. Poi se dobbiamo fare esempi inerenti a quello che è la materia mia, di Gianfranco, di Massimo Bottura, di Andrea Bertone, eccetera, allora possiamo dire c'è un certo Alain Ducasse nel mondo che ha fatto della grandissima qualità e ha creato un impero mastodontico. C'è Daniel Boulud a New York, cioè ce ne sono forse 10 in una mano in tutto il mondo, forse neanche. Quindi quello che l'aspirazione, secondo me, che deve arrivare sui pochi italiani è un'aspirazione del genere. Però, come diceva Gianfranco, anche Ducasse è partito da Monte Carlo ed è stato bravissimo a sfruttare questa ondata che l'ha portato ad essere il numero uno nel mondo in quanto a imprenditoria di qualità, di alta gamma, perché un altro nome ai livelli suoi non credo ce ne siano, neanche Gordon, col quale io sono amico, è un grande imprenditore, ma non è un'alta gamma che fa di cassa, è leggermente diverso, è leggermente più spostato. Beh, devo dire, lanciare una freccia io a favore così di caro Salvemini e di questi chef italiani. In realtà, se andiamo a vedere i bilanci dei primi anni di Ducasse a Monte Carlo o di Gordon Ramsay con la società quotata in borsa, bene, Dio ce ne scampi liberi. Io vi ringrazio Davide Oldani, Gianfranco Vissani e Severino Salvemini. Un buon weekend dal vostro gastronauta. A presto.